Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, gli editori La Terza stanno pubblicando una collana Contromano nella quale sono editi diversi volumi dedicati ad alcune mete particolari del nostro paese. Di alcuni di questi volumi abbiamo parlato. Adesso vi segnalo una tappa in questo itinerario particolarmente curiosa e anche imprevedibile, perché ci presenta una plaga dove certo non ci sono flussi turistici imponenti, e cioè la pianura padana, anzi meglio un lembo della pianura padana, quello che inizia a circa 30 km da Milano, abbraccia a sud Pavia, poi arriva fino a Mantova, attraversando il Cremonese e tutta la parte a settentrione del Po. Una zona che rappresenta un microcosmo compatto, appunto, che da Milano arriva fino a queste zone. Di questo microcosmo diventa epicentro, non tanto geografico quanto simbolico, un piccolo borgo, Nosadello, cantato qui da un suo figlio che ha fatto strada diventando un importante studioso di Dante, ma che col suo paese di origine non ha certo reciso le radici. Lui si chiama Mirko Volpi e il suo libro si intitola Oceano Padano, è pubblicato appunto dalla Terza, 172 pagine, 13 euro. Quella padana è una civiltà appartata e periferica, anche se non geograficamente periferica, che però appunto a pochi chilometri da Milano apre tutto un mondo completamente diverso, al quale Volpi, costretto per gli impegni accademici a vivere a Pavia, non rinuncia, trascorrendo per esempio l'estate in quel pozzo di luce, di calore e di noia al quale tuttavia non riesce a rinunciare. E di questo mondo profondamente legato alla produzione e alla trasformazione agricole, spesso di prodotti di assoluta eccellenza come il burro, che rappresenta uno dei tre elementi su cui galleggia l'oceano padano assieme all'acqua e al letame, di questo mondo, dicevo, Volpi ci offre un quadro molto ironico, spesso implacabile, sempre affettuoso, sottolineando la condizione quasi metafisica dei suoi abitanti, e cioè la noia o la noia apparente, perché il non far nulla diventa espressione dei ritmi di una civiltà agricola difficile da riformare e ora, grazie a questo libro, più facile da capire. Ma sentiamo l'autore. Buonasera a Mirko Volpi. Buonasera, buonasera a lei Carrubba. Mirko Volpi, dove l'abbiamo trovata? Dov'è? In quale plaga si trova? Nosadello? Sfortunatamente sono a Pavia, ho abbandonato il paese natale per la tentacolare città. La città tentacolare. E questo le provoca un trauma? Ormai vivendo da parecchi anni a Pavia è un trauma che ho assorbito, anche se si ripropone alla fine di ogni estate quando ritorno al paese a villeggiare. Affrontiamo quindi questo aspetto. Lei, mi pare di capire, non ama viaggiare, anzi nel suo libro scrive che viaggiare mi è sempre sembrata un'inutile violenza. Esatto, sì. Ho sempre pensato che si stesse bene lì dove si è nati, lì dove si è cresciuti. E non amo spostarmi, per me lo spostamento è uno strappo, una violenza, e dunque l'invertimento della normalità, di quello che dovrebbe essere la normalità, per me è sempre stato un piccolo trauma che si combatte negli anni, ma insomma di fondo rimane sempre tale. Però Nosadello è qualche cosa di più, perché sempre in un altro punto del suo libro lei scrive che di abitare luoghi necessari. Ecco, qual è la necessità di Nosadello? Io credo che la necessità di Nosadello, che è un simbolo, diventato per me poi un simbolo, anche se parte come naturalmente un luogo reale, è quel posto, e questo può valere per qualunque persona, nella quale troviamo un senso a noi, un senso ciò da cui veniamo, non però un'identità, che è una parola brutta, una parola escludente a mio avviso in questo caso, ma un senso, una dimensione di senso in cui potermi riconoscere più a pieno. Ecco. Infatti in un altro brano del suo libro lei scrive di non voler fare un libro passatista, ma una sobria celebrazione di un deposito di valori. Ecco, questi valori nei quali si riconosce che vuole mantenere vivi sono ancora attuali? Come stanno cambiando? Quali sono i rischi che stanno affrontando? Ma a me sembra di aver trovato nei piccoli paesi dell'Oceano Padano e quindi in Nosadello un certo conservatorismo, cioè che non è passatismo appunto come diceva lei, ma il mantenimento di alcuni valori, quindi il rispetto anzitutto il rispetto dell'ordine naturale delle cose, che ormai sembra una parolaccia, natura e ordine naturale delle cose. La modernità sta minacciando anche i nostri paesi, e quindi certi valori, certo attaccamento a cose che ormai vengono sentite come superate, come sciocche, per non dire superstiziose, sta lambendo anche i nostri confini, un po' come quando le novità arrivano in periferia più tardi, e noi in questo caso siamo la periferia della Lombardia, dell'Italia, del mondo, insomma. Infatti lei definisce Nosatello un presidio culturale contro il presente. È così pericoloso il presente? Quando porta l'incapacità di vedere che certe cose, a prescindere dal passare del tempo, debbano rimanere uguali, per me sono dei piccoli rischi. Certe cose vanno così perché la natura, Dio, per chi come me ci crede, hanno stabilito certe cose, a mio giudizio, e dunque questo arroccamento come fossi quasi un pioppo sulla riva della roggia può essere utile a preservarci. Ecco, non vorrei però eccedere col sermone, perché il libro non è questo, insomma. Ecco, nel libro lei fra l'altro mette le mani avanti dicendo di non voler fare neanche un'epica padana. No. In che senso? Non è un libro, non voleva essere, spero non sia uscito così, un libro celebrativo, non è lode alla Lombardia, lode a Nosatello, ma è una descrizione, è uno sguardo, è il mio sguardo su questi luoghi in cui sono nato, ma non vuole essere un elogio acritico, è uno sguardo. Una dimensione importante nel suo libro, una dimensione direi sospesa, è quella del tempo. Lei scrive che qui nell'Oceano Padano non succede mai niente, però la sua vita, come ci ha spiegato, in questo niente si riconosce. Sì, decisamente, appunto, se ci ricolleghiamo si può ricollegare al mio desiderio di non partire mai. Non succede niente in particolare a Nosatello, anche perché io ci torno da villeggiante, anche se può sembrare assurdo villeggiare a Nosatello, e dunque per me il tempo del ritorno a casa è un tempo vuoto, un tempo pieno di noia, in cui appunto non succede niente, e quando non succede niente non è detto che le cose vadano male. E infatti la noia diventa una dimensione importante nella vita nosatellese e anche nella sua cronaca. Sì, esatto, anzi ho il sospetto che questo libro sia nato proprio come riflessione sul mio tedio infinito nelle estati al paese, che è un tedio che è consolante, è rassicurante, è una piccola droga che assunta poco a poco ci fa stare bene. Però intanto il tempo scorre e in qualche modo ci costringe a tenerne conto. Lei conclude un capitolo scrivendo di considerarci tutti immigrati dal passato che rischiano un'imperfetta integrazione nel presente. Esatto, ho scritto così perché a significare un po' il fatto che nei piccoli centri si conservino ancora delle tracce dell'Italia precedente al boom economico all'incirca, secondo me quello è un discrimine forte, e dunque conservazione di alcuni tratti in un contesto moderno, ma le due dimensioni, le due realtà, le due mentalità non sempre riescono a convivere in maniera armoniosa. Lei ha fatto già un cenno a quelli che sono i caratteri della civiltà, di questa civiltà padana, e scrive: nell'Oceano Padano lavoriamo molto, parliamo poco, non sempre sappiamo tutto quello che proviamo, per questo io, e non io solo, detesto i ritardatari, i disordinati, gli approssimativi, gli imprecisi, i distratti, i confusi e confusionari, gli artisti, gli artistoidi, gli scrittori, eccetera eccetera. Ecco, lei che è diventato un intellettuale, come viene visto dai suoi concittadini? Credo di non essere un intellettuale, sono solo uno che ha scritto un libro, e quindi non lo so come sono visto dai miei concittadini, devo essere sincero, forse vengo guardato con la consapevolezza che faccio comunque parte di loro, della comunità, ma forse si è ormai instaurato un leggerissimo diaframma che ci tiene un pochino lontani. Questo in parte mi spiace, in parte è naturale, giusto che avvenga. Un atteggiamento che i nosatellesi odiano è quello del lamentarsi sull'Oceano Padano è pratica abietta, vergognosa. Un nosatellese che fosse trasferito in un'altra zona d'Italia si lamenterebbe? Non dovrebbe farlo assolutamente, anche perché questa cosa del lamento rientra nel discorso più generale su sul fatto che, a mio avviso, i lombardi, soprattutto i lombardi dell'interno, non mostrano nulla di ciò che capita all'interno dei nostri cuori, non mostriamo le emozioni, le sensazioni, e quindi lamentarsi è un cedimento, un segno di debolezza che in queste terre abituate al lavoro e al pragmatismo, insomma, sono cose non tollerabili. Quindi anche il nosadellese in trasferta è bene che non si lamenti. Senta, parlando delle vicende amministrative del suo comune, lei richiama in qualche misura la dignità e l'importanza della tradizione dei campanili in Italia, parla di isole che si sono formate libere, caparbie, dotate di un senso d'appartenenza, sì. Eccetera eccetera. Ecco, quanto conta ancora questo patrimonio di municipi, di campanili, di tradizioni locali? Allora, io credo che conti molto, a patto che non diventi appunto un vuoto passatismo o, appunto, come dicevo prima, un'identità priva di senso, una bandiera che sotto cui non c'è nulla. È importante ricordare, è importante conservare, purché tutto non si trasformi come in quelle parate medievali organizzate dalla Pro Loco, che però poi non hanno nulla che richiami realmente alla storia e alla dimensione di appartenenza di un popolo e delle singole persone. Concludiamo con l'isola madre dell'Oceano Padano, cioè Milano. Qual è il rapporto vero tra Nosadello, ma soprattutto tra Milano e questo oceano che si apre in fondo a pochissimi chilometri dalle sue porte? Sì, esatto, noi siamo a 30 chilometri ormai dalla prima stazione della metropolitana. Ecco, Milano negli ultimi decenni l'isola madre ha riscoperto i paesini, la ruralità, le buone cose di un tempo, il salame nostrano, e dunque i milanesi venendo al paese con una certa ingenuità che noi gli riconosciamo, cerca queste cose, ricerca questi gusti, soprattutto questi sapori, trovando spesso delle sonore fregature, e io lo dico nel libro, una specie di rivincita di Renzo che va in città e viene turlupinato all'osteria. Per converso, noi oceanici, io in particolare, insomma, sentiamo una forte distanza rispetto a Milano, anche se ci siamo vicini, anche se ci abbiamo fatto fortuna, anche se ci andiamo a lavorare, rimane un'entità incomprensibile per noi. Già Pavia è un po' troppo grande. Sì, esattamente. Grazie a Mirko Volpi, autore di Oceano Padano. Buona serata. Grazie mille a lei, buonasera. E a proposito dell'isola madre, cioè di Milano, ritroviamo la città nel libro di Massimiliano Chiavarone, Come bella la città, Milano raccontata dai suoi protagonisti, è pubblicato da Lite Editions, 368 pagine, 16,90 €. Chiavarone è un giornalista del Giorno che ha raccolto tra il 2012 e il 2014 le interviste a 52 illustri personaggi, tra l'altro ce n'è uno che ci ha lasciato da poco, cioè Elio Fiorucci. Tra questi personaggi c'è di tutto, ma comune a tutti è l'entusiasmo per Milano, che a ciascuno degli intervistati ha offerto opportunità irripetibili. Massimo Boldi, per esempio, senza Milano, confessa, sarebbe finito col fare il tassista. Dunque è importante questo libro perché contrasta con una certa letteratura apocalittica che pure ha avuto un certo successo negli ultimi anni a proposito di Milano, e riconosce il libro che Milano ha certo i suoi problemi, ma anche le energie per affrontarli e soprattutto le risorse fatte di personaggi che con la propria esperienza incoraggiano anche le nuove generazioni ad avere fiducia in Milano. E adesso parliamo invece di una delle pagine più gloriose della civiltà europea, quella che ha aperto la strada alla globalizzazione, la pagina è quella del consolidamento dell'Olanda borghese. Allora vi segnalo un affascinante libro di uno studioso canadese, è un sinologo di professione, che si misura qui col fenomeno della globalizzazione studiando un microcosmo sorprendente, 7 quadri, di cui 5 del sommo pittore Vermeer e un piatto cinese. Il libro si intitola Il cappello di Vermeer, il 600, la nascita del mondo globalizzato, è pubblicato da Einaudi, 282 pagine, 30 €. I quadri di quel grande pittore sono quanto di più intimista si possa immaginare. Le vedute sono poche, nelle scene d'interno troviamo case borghesi olandesi, al tempo stesso sobrie e opulente, pochi personaggi, eppure quei quadri rappresentano delle finestre, delle autentiche finestre sul mondo e sulla storia che Brooke ci aiuta a spalancare. Un cappello, per esempio, addomina il quadro L'ufficiale ragazza che ride, che possiamo ammirare alla Free Collection di New York. Il cappello è un sontuoso e appariscente copricapo di feltro indossato interpretato dal protagonista, che ci consente di leggere in maniera insolita e completa la storia della colonizzazione di quello che oggi è il Canada e dei rapporti commerciali con l'Europa e con l'Olanda. Il quadro forse più famoso di Vermeer è La veduta di Delft, che ammiriamo all'Aia, e qui attraverso piccoli particolari apparentemente insignificanti troviamo degli elementi che ci parlano per esempio del raffreddamento globale che si verificò tra il 1550 e il 1700, delle conseguenze economiche e sociali cui portò questo fenomeno, del consolidamento del capitalismo, per esempio la nascita, lo sviluppo e il successo della Compagnia delle Indie Orientali, del commercio internazionale. Insomma, scrive l'autore, i dipinti di cui cerchiamo i segni del XVII secolo possono essere considerati non solo come porte che ci consentono di riscoprire il passato, ma come specchi che riflettono la molteplicità delle cause e degli effetti che hanno dato origine al passato e al presente. E sentiamo dal libro qualche riga proprio relativa al quadro con la veduta di Delft. Vermeer amava introdurre superfici curve nei suoi dipinti e utilizzarle per rispecchiare ciò che le circondava. Sfere di vetro, utensili in ottone, perle o superfici riflettenti come le lenti che probabilmente usava per dipingere. Tutti oggetti capaci di rivelare qualcosa che trascendeva la realtà presente. In non meno di 8 dei suoi dipinti, Vermeer ritrae donne che portano orecchini di perle. E su ognuno di essi si intravedono forme e linee che rimandano ai contorni delle stanze in cui si trovavano. La perla più straordinaria è quella del dipinto La ragazza con l'orecchino di perla. Sulla sua superficie, così grande da far credere che non fosse affatto una perla vera, ma una gemma smaltata per darle la lucentezza tipica del gioiello, vediamo riflettersi il colletto della ragazza, il turbante, la finestra che la illumina dal lato sinistro e indistintamente la stanza in cui è seduta. Se guardiamo da vicino una delle perle dipinte da Vermeer, vi vedremo fluttuare il suo atelier. Questa infinita serie di superfici riflettenti costituisce una miniaturizzazione delle grandi scoperte realizzate nel 600, in un periodo in cui si doveva fare i conti con l'idea che il mondo, come la perla, era un globo sospeso nello spazio. Una superficie ininterrotta in cui non esisteva alcun luogo irraggiungibile, alcun luogo che non fosse implicato da qualsiasi altro, alcun evento che non appartenesse a quel mondo che tutti dovevano condividere. Si doveva fare i conti con l'idea di una realtà instabile in cui tutti erano perennemente in moto, dove le cose si spostavano da una parte all'altra, affinché un acquirente potesse comprare un prodotto che qualcun altro aveva realizzato altrove. Di conseguenza, bisognava pensare alla vita in modi totalmente nuovi. La globalizzazione, come ci ricorda anche questo libro, aveva avuto impulso con le grandi spedizioni coloniali che seguirono alla scoperta dell'America, e di una di queste, la spedizione di Cortés che travolse l'impero messicano, si parla in un libro che è una sorta di pastiche tra storia e narrativa. L'autore è uno scrittore appunto messicano, Álvaro Enrique, si intitola Morte improvvisa, Feltrinelli, 236 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Irina Bagini. Qui si parla di Caravaggio, di Quevedo, di Cortés, di Galileo, dell'imperatore azteco Cuauhtémoc e di tanti altri personaggi di quel periodo. Soprattutto si parla di tennis, uno sport popolarissimo giocato con palle costruite con un nucleo di capelli, tra i quali troveremo quelli di un personaggio femminile molto famoso, di cui tra l'altro abbiamo parlato poche settimane fa. Siamo dunque a Roma e assistiamo a una dura attenzione, un vero e proprio duello che però è giocato con una partita di tennis tra il poeta spagnolo e il pittore lombardo. E il libro è quasi una telecronaca dell'incontro, con tante digressioni sulle vicende dei protagonisti e degli altri personaggi a essi legati, e anche della conquista spagnola del Messico. Nel libro di Enrique si parla molto dei papi della Controriforma. L'autore messicano non ha nessuna simpatia per questi personaggi e per quella pagina della storia della Chiesa. E allora vi segnalo un libro che invece ha a che fare con la Riforma. È un libro curioso, affascinante, di un teologo protestante svizzero che si chiama Max Engermarre, che si chiama L'ordine del tempo, l'invenzione della puntualità nel XVI secolo, pubblicato da Claudiano, 224 pagine, 28 euro, tradotto da Lidia Maggi. Qui l'autore insiste sulla scoperta del tempo da parte della spiritualità protestante. I protestanti, infatti, a Ginevra fanno subentrare un nuovo tipo di rapporto tra i riformati e il tempo quotidiano. ed è a Ginevra che nasce una nuova economia del tempo e delle sue partizioni. A un certo punto l'autore cita anche il filosofo italiano Benedetto Croce per ricordare la disciplina ferrea alla quale il napoletano si sottoponeva nell'utilizzo del tempo, e ricorda come questa disciplina di Croce si rifacesse agli esempi e ai consigli di Plinio il Vecchio, di Seneca, di Cicerone. L'antica repulsione per la perdita del proprio tempo, scrive l'autore, il bene più prezioso a disposizione dell'essere umano, è un sentimento condiviso dagli umanisti e dai riformatori, da Erasmo e da Buccero, da Castiglione e da Bullinger. I protestanti, in particolare i riformati ginevrini, si appropriano di questa repulsione per combattere il vizio dell'ozio, opponendogli un valore positivo, la puntualità. Adengamar conduce la sua analisi con riferimento alle fonti protestanti, alle tecniche di misurazione del tempo, per esempio parla dei calendari riformati che rispondono allo scopo proporre una concezione lineare del tempo. Insomma, nella visione protestante di Calvino, conclude l'autore, non è tanto l'uomo quanto Dio a essere signore delle ore, o, con le parole dello stesso Calvino, Dio dispone dei tempi e delle stagioni per regolarne il corso come gli sembra bene. L'essere umano si confessa servitore di tale maestro. Il tempo riformato non può che diventare sempre più un tempo etico che fa della puntualità un valore, e quindi l'invenzione della puntualità a Ginevra fa sistema con la definizione delle nuove norme sociali che qualificarono, definirono la civiltà riformata appunto a Ginevra. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di artisti, allora veniamo a un artista del Novecento, una grande artista del Novecento, Leon Orfini, che troviamo nel libro di Corrado Premuda, un pittore di nome Leonor. Da Trieste a Parigi, la scatenata gioventù di Leon Orfini, pubblicata da Editoriale Scienza, 94 pagine, 12,90 euro, ed è illustrato da Andrea Guerzoni. Un autore triestino come Premuda presenta la vita avventurosa e affascinante della grande artista vissuta tra il 1997 e il 1996, che conquistò Parigi, dove diventò una delle protagoniste della cultura contemporanea. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona serata.